Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la riforma delle tariffe elettriche per il settore residenziale, una riforma graduale che giungerà poi a compimento nel 2018 e che ha come obiettivo il superamento dell'attuale tariffa progressiva dell'elettricità, in base alla quale chi consuma poco riceve un ulteriore sconto e chi consuma tanto paga un ulteriore sovrapprezzo. Si è molto parlato di questa riforma sui media in termini di ricaduta a bocce ferme sulla bolletta degli italiani, ma per capire gli effetti sul medio-lungo periodo di questa riforma, quello che dobbiamo domandarci è quali tecnologie vengano favorite e quali penalizzate dalla nuova tariffa. Domanda che giriamo subito, insomma, al nostro ospite, Livio De Santoli, presidente di ICAR, che è l'associazione culturale che raccoglie i progettisti di impianti tecnologici di climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione. Buonasera, De Santoli. Buonasera. Allora, intanto ricordiamo rapidamente, sempre a bocce ferme, ecco, chi pagherà di più e chi pagherà di meno. Allora, diciamo questo, che la riforma, in questa riforma le famiglie italiane non pagheranno più di prima, in quanto l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta non è variato da questa riforma. Che cosa succederà? Succederà che però ci saranno alcuni utenti che saranno penalizzati e altri no. Volendo dare un ordine di grandezza di questo limite, io potrei dire tra i 1800 kWh all'anno di energia elettrica e 2007 c'è una fascia nella quale gli utenti potrebbero perdere o guadagnare. Al di sotto dei 1800 sicuramente le cose andranno peggio, cioè saremo pagheranno di più. Invece al di sopra dei 2007 le cose andranno meglio. Comunque si calcola che circa l'80% delle famiglie pagheranno di più, a volte 2 euro in un anno, quindi cose assolutamente trascurabili, certo. Però saranno più quelli che pagheranno di più di quelli che pagheranno di meno, anche se complessivamente siamo a totale invariato. Ecco, questo cambio tariffario ha dentro anche un cambio di paradigma. Diciamo che prima era prevalente la quota variabile, cioè si pagava poco di fisso e tanto di variabile, semplificando. Adesso si pagherà tanto di fisso e meno di variabile. Con un peggioramento da questo punto di vista, anche se c'è in parte un'attenuazione dovuta al fatto di essere residente o non residente, comunque l'incremento della quota fissa è comunque significativo, è talmente significativo in certe situazioni che è anche dirimente, cioè è quello che fa spostare l'ago della bilancia sul vantaggio e sullo svantaggio. Per esempio, per chi possiede un impianto fotovoltaico e fa autoconsumo, non c'è dubbio che la convenienza, diciamo così, si riduca. Parecchio. Anche, ecco, infatti effettivamente si dimezzi, a quel punto si ritiene. Il cosiddetto prosumer, cioè l'autoproduttore, che prima era agevolato da una serie di contributi, adesso questi contributi non ce li ha più e in più paga una quota fissa anche sull'energia che autoproduce e quindi diventa meno conveniente. Ecco, veniamo invece alle tecnologie che riceveranno un impulso da questa riforma. Voi avete fatto un po' di conti. Noi abbiamo fatto un po' di conti che sostanzialmente confermano quanto dice l'autorità. Tutte quelle utenze che utilizzano efficacemente l'energia elettrica, che prima erano penalizzate dalle tariffe progressive, sono invece naturalmente avvantaggiate da questo punto di vista, che sono le utenze che vanno semplicemente, banalmente, diciamo, dalla cottura a induzione per arrivare al riscaldamento elettrico, come per esempio quello che utilizza pompe di calore, fino addirittura alla mobilità elettrica. Effettivamente il cambio di paradigma di cui parlavamo prima si riflette in un modello completamente diverso di produrre, utilizzare e distribuire l'energia in Italia. In particolare, se si utilizzasse una casa completamente elettrica, compreso il riscaldamento, che attualmente invece, come sappiamo, è prevalentemente a gas, noi arriveremo e supereremo il 25% di risparmio in termini di energia primaria. Beh, si pensi che con questi risparmi così importanti, con la vecchia tariffa, quella progressiva, invece non ci sarebbero altrettanti vantaggi economici. Quasi nessuno, per la precisione. Quasi nessuno, e quindi questo va contro l'efficienza energetica. Cioè, sostanzialmente stiamo dicendo, lo dico in altri termini, che le tecnologie che portano alla sostituzione di un vecchio vettore energetico, il gas per il riscaldamento, con un nuovo vettore energetico, l'elettricità, tramite la tecnologia delle pompe di calore, queste tecnologie erano fortemente frenate dal fatto che appena aumentavano i consumi elettrici per una famiglia esplodeva la bolletta, e a quel punto il gioco non rischiava di non valere la candela. Quindi tu dici che in realtà la riforma poteva essere un po' più coraggiosa, quindi qual è il punto debole? dietro tutta questa storia qui c'è un aumento abbastanza importante, rilevante, dei consumi elettrici. Certo. Sull'andamento dei consumi elettrici che sarà sicuramente in aumento, è opportuno fare una riflessione, perché allora io avrei gettato il cuore oltre l'ostacolo, avrei detto bene, visto che comunque posso formulare una linea di tendenza in aumento del consumo, probabilmente una riduzione di questi costi fissi che comunque sarebbero troppo forti, che sono un po' anche sì, per sono degli alti. Investimenti delle reti, sarebbero un po' troppo alti, potrebbero risultare un po' troppo cioè, alti. Cioè dici, siccome la torta si allargherà, non è necessario mettere questi costi fissi così alti perché ci sarà un più consumo di energia, quindi si poteva caricare energia, più di lì e un po' meno su questi costi fissi. Sì, perché è insito nella modificazione stessa della tariffa, è un gatto che si morde la coda, no? Certo. Io sto facendo una tariffa per aumentare i consumi elettrici, ma ragiono come se rimanessero fermi. Esattamente. Va bene, grazie intanto Livio De Santoli. Grazie, grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani, ma continuiamo a parlare di riforma della tariffa perché c'è una mezza sorpresa passata quasi inosservata. Buona serata.